giorno e sul mio viso ancora lacrime. Come perle brillano nei miei occhi, ormai stanchi. Mentre il tempo corre veloce e lascia tracce di un sogno prigioniero, i miei giorni legati a questo insolito destino ride e fugge dalle mani. E lascia tracce di dolore sui tramonti della mia anima. Resto qui, resto qui, resto qui, resto qui, fermo ad aspettare. Tu non puoi capire, tu non puoi accettare, è il tuo egoismo che ti assale. Tu non puoi capire, tu non puoi accettare, è il tuo egoismo che ti assale. Tu non puoi capire, tu non puoi accettare, è il tuo egoismo che ti assale. Quanti volti trasparenti vestiti come l'ipocrisia. In questa lunga attesa aspetto e cerco la libertà. Storie come fili di seta ancora prigionieri. E la mente vaga nei pensieri che legano ogni attimo. Tu non puoi capire, tu non puoi accettare, è il tuo egoismo che ti assale. Tu non puoi capire, tu non puoi accettare, è il tuo egoismo che ti assale. Tu non puoi capire, tu non puoi accettare, è il tuo egoismo che ti assale. Dammi un sorriso, rivoglio il mio sogno spezzato. Cerco il mio raggio di sole e l'orizzonte senza fine. I vostri volti camuffati nascondono altre realtà. Per fuggire sospettati dai marciapiedi della notte. Che regalano emozioni come fiori di lilla. E tu, e tu, e tu, e tu e noi. Appesi ad un filo di passioni. Tu non puoi capire, tu non puoi accettare, è il tuo egoismo che ti assale. Tu non puoi capire, tu non puoi accettare, è il tuo egoismo che ti assale. Tu non puoi capire, tu non puoi accettare, è il tuo egoismo che ti assale. Io non cerco il paradiso, ma sorrisi che parlano da soli. E nel silenzio delle attese scrivo i miei pensieri. Tu non perdere mai la speranza nell'inseguire i tuoi sogni. Non smettere mai di credere che un giorno cambierà. Tu non puoi